Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento un po' particolare. Parleremo di frodi alimentari. Vediamo innanzitutto cosa si intende per frodi alimentari. Quali sono le attività illecite? Adulterazione, alterazione, contraffazione, sofisticazione dei prodotti alimentari. Bene, la scorsa settimana c'è stato così un giallo attorno a questo argomento perché era apparsa una notizia della cancellazione della legge 283 del 1962 che praticamente abrogava un po' tutti gli illeciti, quindi diciamo che i sofisticatori sarebbero stati tutti liberi di agire e quindi di intossicarci in tante maniere. Però sembra di no, sembra che questa sia stata così una mala interpretazione. E l'unica cosa è una nota a un convegno di anziani del ministro Fazio che dice no, non è stata abrogata. Devo dire che abbiamo chiesto al Ministero della Sanità di intervenire, ci ha detto niet. Abbiamo chiesto ai nuclei di antisofisticazione, hanno detto niet, non si capisce come. Comunque procediamo su questo argomento e abbiamo con noi una persona, un ospite molto gradito che è il dottor Raffaele Guariniello, magistrato della Procura della Repubblica di Torino, che in passato tante volte ha applicato, diciamo, questo provvedimento di legge, al quale chiediamo in maniera molto secca: allora, è stata abrogata o no questa legge, dottor Guariniello? Dunque, la Corte di Cassazione, in una sentenza del 31 marzo 2010, ci ha fatto venire l'ansia perché aveva stabilito che questa legge sarebbe stata da considerarsi abrogata a partire dal dicembre 2010 e infatti nei vari procedimenti che avevamo in corso ovviamente gli avvocati difensori degli imputati hanno prodotto questa sentenza e i giudici erano molto perplessi e stavano un po' per seguire quello che diceva questa sentenza della Cassazione. Ricordo che appunto noi abbiamo sollevato questo problema pubblicamente perché sarebbe stato molto grave e per fortuna la Cassazione, grazie anche alle notizie che i giornali hanno dato, le radio, ha subito approfondito la questione e in una sentenza che ha emesso il 19 di questo mese, cioè pochi giorni fa, ha stabilito, non abbiamo ancora la motivazione, però ha già fatto una massima provvisoria che ha diffuso e ha stabilito che la legge non è da considerarsi abrogata. Quindi questa notizia naturalmente ci ha, come pubblici ministeri, insomma, ci ha riempito di entusiasmo e so che noi abbiamo già anche prodotto questa massima provvisoria nei vari dibattimenti che abbiamo in corso e i giudici si sono adeguati, quindi devo dire è stato molto utile che l'opinione pubblica abbia espresso questa sua preoccupazione, ma utile anche per un'altra ragione, perché ogni tanto negli anni scorsi, ma ogni tanto c'è qualcuno che propone di depenalizzare questa legge a tutela dei consumatori di alimenti, di prevedere cioè non delle sanzioni penali ma delle pure semplici sanzioni amministrative. Ora io credo che la reazione che ha avuto tutta l'opinione pubblica di fronte a una possibile paventata abrogazione di questa legge possa essere un elemento positivo anche per evitare che questa legge venga depenalizzata. Bene, io la ringrazio, grazie di questo bel chiarimento e anche così di quello che lei ha aggiunto in ultima battuta. Grazie dottor Guariniello, grazie dell'intervento. Grazie. Bene, io ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo un radioascoltatore già intervenuto, Luca dalla provincia di Lecco. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Mi dica. Niente, io sono un tecnologo alimentare, quindi con le leggi in ambito di sicurezza, gestione degli alimenti, ho a che fare giorno per giorno, no? Per il mio lavoro, Infatti, subito dopo l'uscita sui giornali e anche su internet di questa presunta abrogazione, mi sono attivato contattando direttamente il Ministro della Salute per, insomma, chiedere informazioni. Infatti ho avuto, insomma, un ulteriore riscontro di quello che era la falsa notizia dell'abrogazione della legge 283. Insomma, questo per dire che cosa? Che tante volte, forse per fare notizia, si danno delle informazioni ai consumatori non troppo corrette, ma proprio per il senso della norma, della 283 del 62, che è a tutela dei consumatori, ma risulta veramente difficile. Luca, io credo che non sia stata, cioè, una falsa notizia. Io credo veramente che ci sia stato un momento di thrilling, come ci ha così ben chiarito il dottor Guarignello. C'è stato un momento di grande attesa e non era ben chiaro. Ma io ho con noi Mario Papagallo, un collega del Corriere della Sera, che proprio lui è uscito con un articolo il 15 di gennaio. È stato, cioè, diciamo che ha abbastanza toccato questa materia, e voglio chiedere se poi ha ricevuto una smentita, perché questo secondo me è abbastanza importante. Buongiorno Papagallo. Buongiorno. No, assolutamente non c'è stata nessuna smentita, se non appunto attraverso le dichiarazioni dei ministri Calderoli e Fazio. Ma il problema in un paese che ha nel diritto, che la parte del diritto, era un problema, come ha detto bene il procuratore Guarignello, era un problema abbastanza fondamentale. Per quale motivo? Perché c'era stata questa sentenza della Cassazione depositata al marzo del 2010 che diceva che riteneva abrogata la legge per una questione di parole. Siccome la taglia leggi parla di dicitura, no, di definizione nel titolo della legge, definizione testo unico, quindi una legge si chiama testo unico o codice. La legge del 62 scrive modifica del testo unico, quindi è una parola in un titolo, ma non è un testo unico per quei magistrati, così avevano interpretato questo passaggio. E quindi che avevano fatto? Avevano detto non c'è più, è una delle leggi tagliate. Cosa succede? Gli esperti, gli specialisti del settore dicono no, per carità, non è abrogata, e in effetti, voglio dire, i controlli potevano essere effettuati, anzi era fondamentale che venissero effettuati lo stesso, come se la legge fosse in vigore. Il problema è che quando si arrivava al rinvio a giudizio o al giudizio, partendo da quella sentenza della Cassazione, e la Cassazione per il magistrato è più importante, giurisprudenza è più importante di quello che dice un ministro, che cosa succede? Succede che tutto il lavoro di controllo, di verifica, di denuncia e di arrivare sul tavolo del magistrato, e veniva assolto la persona. Ci siamo ritrovati con un soggetto che è incappato in questo tipo di reati assolto a Benevento, un altro caso a Torino in cui il magistrato non ha rinviato nemmeno a giudizio, un altro caso in cui nel piccolo periodo dal 16 dicembre appunto a gennaio, in cui il giudice intelligentemente ha rinviato il giudizio a febbraio. Volevo dirti solamente questo, che siccome già nel 2007 si era tentato di modificare questa legge depenalizzandola, addirittura poi con dei capitoli di questo decreto che si stava preparando, che era abbastanza bipartita e che prevedevano anche un reato, tra virgolette, del giornalista che parlava di casi di mucca pazza o roba del genere sui giornali creando allarmismo. E già allora si era capito che, insomma, depenalizzare questa legge era un obiettivo. Adesso, in un certo senso, senza, voglio dire, nessuna malizia, c'erano riusciti, perché gli avvocati difensori, con quella sentenza della Cassazione in mano, avevano strada facile. Quindi i controlli si facevano, le mozzarelle blu o le alici con le larve si trovavano. Il problema è che poi alla fine, arrivati al giudizio finale, c'era la soluzione. La gente ha reagito molto bene, l'opinione pubblica, perché nel mio articolo l'articolo finito su internet ha avuto in poco tempo 15.000 mi piace, che mi sembra un risultato notevole di attenzione al problema. Beh, io credo che sia un argomento molto sentito, ovviamente, specialmente in tempi in cui continuamente ci sono casi alla ribalta. In questi giorni non dimentichiamo che c'era il caso della diossina sulle uova, il caso esatto. tedesco sui maiali, quindi sicuramente c'è molta sensibilità. Grazie Mario, grazie, a presto. E ora abbiamo con noi Roberto Lapira, che è direttore del Fatto Alimentare, che da sempre si occupa di questi argomenti. Volevo chiedere Roberto, al di là, ora lasciamo perdere questa, diciamo, questo giallo che è avvenuto, che è stato chiarito, ma chi può avere interesse a voler depenalizzare questi provvedimenti? No, nessuno ha l'interesse. Buongiorno a tutti i telespettatori, ai radio ascoltatori di Radio 24. No, nessuno ha l'interesse a approvare questa legge, non c'è stato mai l'interesse. Per cui la bufala che è girata su internet, perché bisogna dirla così la questione, non è bisogno di far polemica, ma noi la sapevamo. L'11 gennaio è arrivata la notizia che la legge era stata abrogata. Voglio dire, l'11 gennaio abbiamo studiato la questione per tre giorni i nostri avvocati, e il venerdì gli avvocati mi dicono: è una bufala, usciamo in rete dicendo che è una bufala. Il sabato, venerdì sera mi arriva la nota. Il sabato mattina trovo la stampa, il Corriere, la 7 in rete sui giornali che dicono che la legge è stata abrogata. Voglio dire, per me una notizia di questo tipo, così importante, non può essere data in modo facilone, voglio dire così, senza sentire il Ministero. Il Ministero della Salute aveva già avuto notizia il 28 dicembre che di questa voce che è in rete, sapeva perfettamente che non era vera. Noi l'abbiamo messa in rete, pochi ci sono fidati dei nostri avvocati, che sono molto preparati, che hanno studiato con molta attenzione la questione, per cui noi abbiamo ribadito, abbiamo continuato per tutti i giorni successivi, e poi siamo stati confermati dal Ministero, dai due ministeri e anche dalla Cassazione, che la nostra tesi era giusta. Non voglio fare il presuntuoso, ma si tratta solo di ammettere che un errore è stato fatto, che molti colleghi non hanno approfondito la notizia, non l'hanno nemmeno verificata, voglio dire, e questo è andato. Roberto, ma andiamo avanti. Sì, Roberto, non volevo solo dirti che solamente il giorno, mi sembra, 18 gennaio è arrivato un comunicato da Fazio, che solo allora ha dichiarato appunto questo. Prima, vabbè, voglio dire, Fazio, noi abbiamo esaminato la cosa con i migliori legali in Italia, sì, e ci hanno detto questo. Dopodiché, sì, se uno continua a dire che la legge è stata abrogata, non è vero, abbiamo ragione noi, ma non è bisogno di dare ragione, è bisogno di dare le notizie corrette e di smentire bene le cose che sono state. Ma andiamo avanti. Ecco, rimani con noi, sentiamo Corrado da Treviso, un radioascoltatore. Buongiorno Corrado. Buongiorno, sono Corrado di Treviso, aspetta che spengo la radio. Allora, da un po' di tempo ho osservato, una sera ho guardato su Facebook, ho visto se le confezioni di latte a lunga conservazione che sono in supermercati, e sotto no, ci sono dei numeri dall'1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ogni volta che il latte è in scadenza la ritirano e la riciclano. E allora, se la riciclano una volta manca l'1, se la riciclano due volte, tre volte, è sempre così. Allora, non so se voi avete modo di osservare, l'ho chiesto anche al supermercato, e tanto che è così, ma nessuno sa niente. È una legge del 2008. Ma sentiamo Roberto Lapira, che su questo è molto informato. Roberto, hai ascoltato? Bufale, bufale, bufale. Le bufale girano in internet, ce ne sono tantissime. Per questo io, voglio dire, mi sono messo a fare questo sito che si chiama Il Fatto Alimentare. È una bufala girata in internet. Allora, un latte a lunga conservazione costa 0,25 euro al litro. Costa più la confezione e la distribuzione del prodotto. Il pensare di prendere il latte, rompere la confezione, riconfezionarlo è assurdo, ma questa notizia qui è stata in internet per tantissimo tempo, noi abbiamo fatto anche una smentita insieme a molti altri, voglio dire, è stata cliccatissima, perché più sono grandi le bufale, più vanno in rete, più la gente ci crede, più sono assurde. Questo è un grosso problema. Bene, sentiamo anche su questo argomento, rimani sempre con noi anche l'avvocato Paolo Martinello, che è presidente di Altro Consumo. Ricordo il numero verde, chi vuole intervenire su questi argomenti, 800 24 0024. Avvocato. Eccomi. Buongiorno. Ha sentito di questo Corrado da Treviso, di questa cosa che gira su internet, su Facebook, sul latte a lunga conservazione? Sì, bisognerebbe vedere esattamente la confezione, mi pare che, come diceva Roberto Lapira, è una notizia assolutamente infondata. Quindi, ma ecco, volevo chiederle, anche lei avrà seguito questo giallo, ma non voglio tornare sul giallo. Voglio chiederle, Guariniello nel suo intervento iniziale, così ha detto, più volte si tenta di depenalizzare i contraffattori, togliendo il fatto penale e lasciando solamente un fatto amministrativo. Lei su questo come la pensa? Beh, è un allarme giusto, bisogna sempre tenere la guardia molto alta quando si parla di sicurezza alimentare. La stessa 283 della quale stiamo parlando, si è tanto parlato in questi giorni, è stata parzialmente depenalizzata ormai 12 anni fa, nel 99, sono però rimaste alcune fattispecie penali nella 283, quelli di cui si discuteva appunto in questi giorni, che sarebbero venuti meno se la legge fosse stata abrogata, cosa che non è stato, ma l'allarme secondo me c'è stato giustamente, perché è sempre un tema molto delicato quello della punizione dei reati, perché cadendo i reati cadono anche le possibilità di controllo. La 283 è una legge consente oltre alle punizioni i controlli, le ispezioni, i prelevamenti dei prodotti nei negozi e nelle aziende, quindi è fondamentale che resti in piedi, anzi casomai bisognerebbe forse in alcuni casi pensare anche a delle sanzioni più severe. C'è sempre anche il codice penale, non bisogna mai dimenticarlo, perché poi la 283 è una legge speciale che punisce situazioni di pericolo indipendentemente dal fatto che si verifichi un danno o si verifichi un evento. Il solo fatto di detenere un prodotto contraffatto o comunque pericoloso o semplicemente sporco o pieno di parassiti o di germi o di pesticidi o in cattivo stato di conservazione corrisponde alla fattispecie prevista da questa legge, quindi è importante per poter fare i controlli che resta. Rimanga con noi, ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Voglio leggere un sms: nessuno parla mai dei surgelati e dei possibili metodi per far apparire quelli conservati male tramite stickers che cambiano colore sensibile alla temperatura. La pira, anche questa è una bufala? Allora, da 25 anni almeno esistono questi indicatori di surgelati che servono di cambiamento di temperatura dei surgelati, questo è un po' il problema, e non sono mai stati utilizzati perché non volevano prima le aziende, non volevano prima i distributori, perché poi alla fine un difetto di questi indicatori era che bastava una punta di 10 minuti, un quarto d'ora la temperatura ambiente virava il colore. In realtà poi il prodotto è ancora commestibilissimo, eccetera, per cui era una difficoltà proprio nel valutare. Poi un conto è un pezzo da un chilo che dopo magari dopo 10 minuti a temperatura ambiente non succede niente, un conto invece è una confezione da 40 grammi che dopo 10 minuti a temperatura ambiente potrebbe cominciare un po' a deperire, eccetera. Quindi è un po' complessa la situazione dei surgelati, degli indicatori dei surgelati, anche se esistono. Dico, quando ero all'università io si parlava già di questi indicatori ed esistevano. La messa a punto è un po' articolata, un po' complessa, questo va detto. Poi c'è il problema che se virava, poi il distributore dice è virato perché è stato il grossista a alterare la temperatura dei magazzini, quindi è colpa sua. Invece il grossista diceva è stato il distributore poi è stato il produttore. Era un gran caos, ecco perché non è mai stata poi, non è mai entrata in vigore, oltre all'imprecisione del sistema. Certo. Bene, grazie a Roberto Lapira, avvocato Paolo Martinello, rimanga con noi. Bene, molti radioascoltatori ci hanno chiamato, sentiamo Pasquale dalla provincia di Trento. Buongiorno Pasquale. Buongiorno. Mi dica. No, ma ne avete già parlato, per la questione dei surgelati col il chip che ne stabilisce la temperatura. Chiaramente se le aziende si attivassero su questo, uno lo comprerebbe con più tranquillità e avrebbero più vendite, io penso, perché insomma che la catena del freddo qualche volta venga interrotta, insomma, questo è quello bene che volevo dire. Grazie Pasquale, sentiamo Francesco dalla provincia di Latina. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno. Mi dica. Sotto sì, potente. Mi dica. Sì, sì. E niente, volevo esprimere la mia opinione per quanto riguarda la depenalizzazione della legge in questione. Io in passato ho avuto esperienza diretta in ambiente dell'industria alimentare e gli industriali hanno tutto l'interesse a depenalizzare appunto questa legge, proprio perché hanno paura dei controlli da parte degli organi di controllo adibiti. Quindi c'è una pressione da parte della classe industriale verso la classe politica per depenalizzare appunto questa legge, come dicevo prima, come è già successo in passato, che sono riusciti a depenalizzare il falso in bilancio. Bene, grazie. Grazie Francesco. Abbiamo proprio con noi il direttore generale della Federalimentari, Daniele Rossi. Buongiorno Daniele. Buongiorno Davide, buongiorno. Hai sentito questo radioascoltatore? Sì, mi ha sorpreso, perché in realtà l'industria alimentare ha solo da perdere in assenza di sanzioni o nella loro riduzione. Cioè, l'industria alimentare vuole che le mele marce vengano allontanate, perché l'immagine del settore, che è famoso in tutto il mondo, è molto più importante di qualche piccola frode alimentare, questo di gran lunga. Quindi cioè, è una legge che è giusta che continui, e anzi, secondo me... No, va assolutamente, non solo è mantenuta, salva, come la Cassazione ha già detto, la 283, ma va addirittura inasprita, secondo me. Bene, avvocato Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, anche lei concorda con Daniele Rossi? Assolutamente, anzi mi fa piacere che sia l'industria a dire questo, perché è esattamente quello che diciamo noi. Diciamo che poi l'esperienza quotidiana ci mostra che i casi di frodi alimentari, proprio in questi giorni stiamo, come Altro Consumo, stiamo seguendo il processo di Cremona, che è forse la più grossa vicenda in materia di sicurezza alimentare in questo momento aperta in Italia, la famosa questione dei formaggi, degli scarti di formaggi riutilizzati e reimmessi nel circuito. Quindi vi ricorderete tutti, certo, le fotografie che erano state pubblicate alcuni mesi fa. E il processo si è aperto, è un caso limite, giustamente, come diceva Rossi, però sono casi che vanno assolutamente puniti severamente e che a volte possono coinvolgere o sfiorare anche l'industria più seria, e quindi è importante che non ci siano reticenze su questo, che quando vengono commessi degli errori vengano riconosciuti e vengano rimediati e puniti. Adriano dalla provincia di Bolzano, un radioascoltatore. Buongiorno Adriano. Buongiorno, mi riferisco al bufala del latte riciclato, quello a lunga conservazione. Volevo solo suggerire questo, visto che questi numeri sotto le confezioni esistono e a volte si presentano con un numero o più in meno, sarebbe utile, a completezza dell'informazione, dire a cosa serve questa indicazione. Solo questo, grazie. Bene, grazie ad Adriano. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi anche un altro ospite, che è un docente universitario ed è noto per aver scritto un libro, Pane e bugie, di occuparsi sempre di fatti alimentari. Noi l'abbiamo così invitato più volte, è Dario Bressanini. Buongiorno Dario. Ciao Davide, buongiorno agli ascoltatori. Da molto tempo gira questa notizia, che da quando c'è stato il boom del sushi, che c'è questa trasformazione, direi quasi un miracolo, ricorda un miracolo storico, che il tonno pinne gialle diventa rosso attraverso il monossido di carbonio. Ecco, è possibile Dario questo, e quali conseguenze può avere? Sì, allora il monossido di carbonio si può legare alla molecola che è responsabile del colore rosso della carne, sia della carne, diciamo, bovina, che quella dei pesci come il tonno, e impedisce che questa, ossidandosi, diventi di quel colore scuro che spesso vediamo quando ad esempio la carne è vecchia oppure il pesce è stato conservato troppo a lungo. Allora, c'è da dire che in alcuni paesi questa pratica è legale, ad esempio negli Stati Uniti è assolutamente legale, si può trattare col monossido di carbonio oppure con una leggera fumicatura, perché la fumicatura produce il monossido di carbonio, e questa sostanza, la mioglobina, rimane rossa in modo innaturale per un certo periodo di tempo. Qual è il rischio? Nell'Unione Europea, quindi anche in Italia, questa pratica è vietata. Qual è il rischio? Il rischio è che il consumatore non si accorga che il pesce, il tonno in questo caso, ma si applica anche ad altri pesci, per esempio al pesce spada, che anche questo viene spesso trattato. Quindi che il consumatore non si accorga che il pesce si è deteriorato, se si basa solo sul colore, In realtà quando si acquista il pesce si dovrebbe usare tutta una serie di parametri, non solo il colore. Comunque se ci si basa solo sul colore, il consumatore vede il colore bello rosso, pensa che sia pesce fresco, sia tonno fresco, e mentre in realtà è stato magari già deteriorato. La deteriorazione del tonno in particolare può essere pericolosa perché produce una sostanza che si chiama istamina, che può dare luogo a un vero e proprio avvelenamento. Sono noti casi di avvelenamento, quindi con ricovero in ospedale, di persone che hanno mangiato del tonno che non è stato conservato bene. Bene, grazie Dario. Sentiamo Giorgio da Torino, un radioascoltatore. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, senta, io sono un operatore nel settore alimentare, ho un bar e un ristorante. Allora, intanto volevo significare quanto a Torino non vengono fatti controlli nei supermercati, mentre invece nelle nostre attività periodicamente passano, se trovano leggermente un po' di polverina sulle bottiglie nella stagiera ci fanno subito da 500 a 2500 euro di sanzione. Mentre io vado a comprare nei supermercati mi accorgo che c'è polvere dappertutto, specialmente alla metro di Torino, dove automaticamente è tutto sporco che non finisce più, senza contare che abitualmente nei supermercati c'è gente che si riempie il cestello di surgelati, poi cambia idea, li lascia lì e nessuno li va a togliere. Alla fine della serata li prendono e li buttano di nuovo nel congelatore, al che io ho già segnalato questa cosa all'igiene. L'igiene fa, non so, lei faccia esposto, poi vedremo, non si sa mai, andiamo a controllare. Questo è quello Bene. Che succede nei supermercati, senza contare che adesso che parlava del pesce, a Torino i cinesi hanno trovato un sistema per mettere nell'occhio del pesce delle gocce che lo fa sembrare praticamente fresco. Beh, di giornata. Gli metteranno il colirio, immagino. Sì, è una battuta spiritosa, ma in realtà purtroppo ci sono queste cose molto pericolose. Grazie Giorgio, io torno a Daniele Rossi per chiedere, Daniele, ma rispetto agli altri paesi europei e la nostra legislazione anche dal punto di vista della sicurezza alimentare forse è una delle migliori al mondo, tu concordi sì, su questo? Sì, concordo pienamente, siamo sempre stati molto più attenti e più restrittivi, non solo sulla sicurezza ma anche sulla qualità. Volevo aggiungere un commento al nostro radioascoltatore che ha perfettamente ragione, cioè noi ci stiamo battendo, noi e il mondo agricolo, affinché tutti gli obblighi che riguardano la responsabilità dei produttori vengano estesi anche a chi riconfeziona, che taglia, che ha prodotti da banco, che lavora in magazzini surgelati, che sono i grandi distributori. Quindi ha perfettamente ragione il collega del pubblico esercizio, la responsabilità dei produttori va estesa anche a chi manipola e trasforma presso la distribuzione. Bene, grazie. Sentiamo Lorenzo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno. Volevo solamente dare una spiegazione per quanto riguarda i numeri sulle confezioni del latte, quello a lunga scadenza. Sì. Ho sentito prima lo spettatore. No, praticamente la stessa risposta si trova navigando online, è una bufala che circola ormai da diversi mesi, non è altro che un metodo di numerazione che utilizza la Tetra Pak del confezionamento dei loro prodotti. Praticamente vengono utilizzate delle bobine, queste bobine poi vengono utilizzate per confezionare non solo il latte, perché si trova la stessa numerazione anche sulle confezioni dei succhi, sulle confezioni del vino da tavola in Tetra Pak. Praticamente in questo modo la Tetra Pak è in grado di identificare la bobina che è stata utilizzata per quella particolare tipo di confezione. Bene. E anche sul sito della Tetra Pak si può trovare la stessa risposta, in quanto è una bufala ormai, diciamo, molto diffusa. Grazie, ringrazio l'avvocato Martinello e Daniele Rossi. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, il numero stampato sul fondo della confezione del latte Tetra Pak è il numero della bobina che ha stampato la medesima, quindi ho risolto questo giallo che era un altro giallo che era comparso, diciamo, in questa trasmissione. Sentiamo Luciano da Piacenza, radioascoltatore. Buongiorno Luciano. E buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a lei, signor Paolini. Io sono Luciano e sono un produttore di animali da cortile, ruspanti. Anzi, mi chiamo Luciano Pigorini, posso dire anche la mia azienda? No, prego, ci dica la domanda che vuol fare. Ma più che la domanda, io volevo fare una segnalazione. Sì, ce la faccio. Noi abbiamo deciso di rientrare nella produzione del pollame biologico e quindi certificato biologico. Noi troviamo però a livello di competitori, e questo io lo so e lo vedo, troviamo sui banchi dei supermercati prodotti di pollame biologico che comunque di biologico hanno ben poco. Mi spiace perché ci sono tanti altri produttori che invece seguono le norme del biologico in un certo modo, e questo noi lo vediamo perché proprio la fattezza dell'animale è inequivocabilmente una genetica direi convenzionale, industriale, e noi abbiamo testato, abbiamo provato di levare questa genetica e queste genetiche industriali di pollo con il sistema biologico e abbiamo avuto delle perdite enormi a livello di morti, perché devono essere assolutamente seguite con metodo allopatico, oltre, quindi diciamo con la medicina, con la profilassi convenzionale, industriale, non sì, biologica. Mi sembra di capire che lei voglia dire che c'è una concorrenza sleale, insomma, su sì. Questo. E allora io credo che in questo caso lei dovrebbe ricorrere sicuramente alla magistratura e facendo segnalare questo caso. Il problema di questa trasmissione è sì, di parlare di questi argomenti, ma noi non è che possiamo raccogliere casi in cui appunto c'è questa frode alimentare. Io credo che l'organo giusto sia la magistratura. Certo, sicuramente. Bene, grazie a Luciano da Piacenza. Io dico che cioè, sul settore alimentare forse le frodi maggiori sono nel settore degli oli. Allora abbiamo con noi il presidente dei Mastri Olerari, Flavio Zaramella, che più volte ha denunciato questo. E voglio chiedere, caro Flavio, molto sinteticamente, quali sono i casi diciamo abbastanza pericolosi di frode sugli oli? Ma di casi veramente pericolosi non esistono. Nel senso che non c'è pericolo immediato per la salute. Diciamo che la frode fa commercializzare dei prodotti che non hanno i requisiti salutistici che dovrebbero avere e pertanto non sono del tipo di qualità che il consumatore pretende e che soprattutto la legge obbliga. I casi più comuni sono quelli di oli deodorati, lasciamo stare le sofisticazioni di bassa lega, oli di semi mischiati con oli di oliva, ma anche andando in giro per i supermercati basta analizzare la stragrande maggioranza dei prodotti non made in Italy e si vede subito che non hanno i requisiti di legge, specialmente sul piano organolettico, si sentono addirittura degli odori nel parlare comune dei produttori di oli di oliva e dei frantoiani, noi diciamo che, che l'Italia è invasa per esempio da una quantità gigantesca di prodotti che sanno addirittura di acido fenico, di pipì di gatto, per cui chiaramente l'ispettorato per il controllo, la tutela della qualità, l'ex repressione frodi, non fa i rilievi che dovrebbe fare. Bene, grazie Flavio. Voglio ritornare a Dario Bressanini. Dario, oltre abbiamo sentito del tonno, ci sono altri casi clamorosi di frodi alimentari, di adulterazioni, sofisticazioni, che tu conosci, insomma? Allora, c'è un portale dell'Unione Europea, si chiama RAF, che è consultabile pubblicamente su internet da tutti, che riporta giorno per giorno tutta la serie di frodi o di diciamo, prodotti alimentari che non rispettano le norme. La maggior parte dei prodotti che vengono bloccati nel mercato o importazione che nel mercato interno riguarda in realtà spesso frutti di mare, vongole, cozze che sono ad esempio contaminate da vari microrganismi o salmonella o cose di questo genere. Ci sono però anche dei casi un po' strani, diciamo, magari isolati, non diffusi, però ci sono. Uno è il caso che diceva prima l'interlocutore, cioè l'olio d'oliva. A volte si prendono degli oli di semi, vengono colorati con della clorofilla, magari poi tagliati con un po' di olio extravergine e vengono venduti come olio extravergine. Oppure ci sono casi, ad esempio, di questo è un caso che è successo l'anno scorso, di mozzarella di bufalo che vengono in realtà contraffatte, perché in realtà sono mozzarelle vaccine, cioè di latte di vacca, vendute come mozzarella di bufala. Ecco. Ma ce ne sono tantissime di cose di questo genere, anche l'aceto ad esempio, c'è aceto, sono state trovate delle partite di aceto che non derivava dal vino, ma derivava da, proprio, da acido acetico, diciamo, variamente aromatizzato. Bene, grazie a Dario Bressanini. Bene, ora diciamo una cosa che, cioè, non è un esperto, però sicuramente ha scritto qualcosa di veramente per me straordinario quando l'ho letto. È uno scrittore di Massimo Carlotto che assieme a Francesco Abate ha scritto un libro, diciamo un romanzo che si chiama Mi fido di te. Mi fido di te. Mi fido di te. Mi fido di te. Buongiorno Carlotto. Buongiorno. Devo dire che ho trovato il suo Gigi Vianello veramente straordinario in questo libro, veramente un grande sofisticatore fino a un certo punto del libro. Ma volevo chiederle, questa storia dei pollami che lei descrive così perfettamente, appunto, che vengono riciclati, che sono morti oppure sono putrefatti, ma lei l'ha tratto dalla realtà o è pura fantasia? No, è tutto assolutamente vero. Noi abbiamo preso una storia e ce la siamo inventata, il personaggio, l'ambiente, eccetera, ma tutte le storie riferite alla sofisticazione alimentare sono tutte indagini dei NAS. Ah, quindi è veramente... Non c'è nulla di inventato. Ci siamo limitati a incrociare i dati regione per regione e vedere quello che, anche a livello europeo, quello che sta accadendo. Abbiamo fatto lunghe interviste ed è tutto assolutamente vero. Beh, poveretti quelli che hanno mangiato quei polli comunque. No, veramente stiamo continuando a mangiarli. Beh, penso proprio di sì, perché la sofisticazione continua, immagino. No, si sta espandendo. Addirittura. A macchia d'olio. Addirittura. Sì, perché è evidente, ormai è il secondo business delle organizzazioni criminali. Dopo i rifiuti per le mafie, la sofisticazione alimentare è diventato un settore ancora più remunerativo del traffico di stupefacenti, perché si guadagna moltissimo e si rischia pochissimo. Ma state scrivendo un altro libro sull'argomento? No, stiamo raccogliendo ancora materiale perché è veramente impressionante quello che è accaduto in questi ultimi due anni, nel senso che c'è stata proprio un'evoluzione, c'è un investimento anche, voglio dire, di intelligenze criminali nel settore sofisticazione che fa veramente paura. Senta, ma lei quando ha letto di questa legge, che questo giallo che poteva essere abrogata o meno, cosa ha pensato? Povera noi? No, ho pensato che la linea che molte lobby a livello europeo stanno cercando di far passare, è un desiderio politico europeo, a livello europeo, quello di depenalizzare questo tipo di reati. Bene, io la ringrazio, grazie anche per aver scritto questo libro che io consiglio, Mi fido di te, di Massimo Carlotto e Francesco Abate, perché è veramente un giallo molto interessante, ma come avete sentito anche basato sulla vera realtà. Mi scuso con Giovanna e Amelio, due radioascoltatori, ma non faccio in tempo a rispondere così a tanti sms. Grazie a Flavio Zaramella e di nuovo a Massimo Carlotto. Buona giornata da Davide Paolini, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca. Vi do appuntamento ogni giorno con la pillola delle 11.05, ripetuta alle 23.05.